Dimisi ogni fierezza nei confronti di Albertine. Le mandai un telegramma disperato chiedendole di tornare a qualsiasi condizione, che avrebbe fatto tutto quel che volesse, che chiedevo solo di baciarla un istante 3 volte alla settimana prima che andasse a dormire. E se avesse detto una volta soltanto, avrei accettato una volta. Non tornò mai. Il mio telegramma era appena partito che ne ricevetti un altro. Era di Madame Bontemps. Il mondo non è stato creato una volta per tutte per ciascuno di noi. Nel corso della vita vi si aggiungono cose che non potevamo immaginare. Ah, non fu certo la soppressione della sofferenza a prodursi in me per effetto delle prime 2 righe del telegramma. Mio povero amico, la nostra piccola Albertine non è più. Perdonatemi se vi dico questa cosa terribile, voi che l'amavate tanto. È stata gettata contro un albero dal suo cavallo durante una passeggiata. Tutti i nostri sforzi non sono valsi a rianimarla. Vorrei essere morta al suo posto. No, non soppressione della sofferenza, ma una sofferenza ignota. Sapere che non sarebbe tornata mai più. Ma non me l'ero detto tante volte che forse non sarebbe tornata? Me l'ero detto, in effetti. Ma adesso m'accorgevo di non averlo creduto per un solo istante. Poiché avevo bisogno della sua presenza, dei suoi baci per sopportare il male che mi facevano i miei sospetti, avevo preso, dopo Balbec, l'abitudine di stare sempre con lei. Anche quando lei usciva, quando ero solo, continuavo a baciarla. Né avevo smesso da quando era in Turin. Avevo molto meno bisogno della sua fedeltà che del suo ritorno. E se la mia ragione poteva, qualche volta, metterlo impunemente in dubbio, la mia immaginazione non cessava un solo istante di rappresentarmelo. Istintivamente mi passai una mano sul collo, sulle labbra, che si sentivano baciati da lei da quando lei era partita e che non lo sarebbero stati mai più. Vi passai una mano così come la mamma, quando era morta la nonna, mi aveva accarezzato dicendomi: «Povero piccino, la nonna che ti voleva tanto bene non ti bacerà più». Tutta la mia vita futura era stata strappata dal mio cuore. La mia vita futura. Ma non avevo dunque pensato qualche volta di viverla senza Albertine? Ma no! Da tempo le avevo dunque votato ogni minuto della mia vita fino alla morte, ma certo, non ero stato capace d'accorgermene di quel futuro indissolubile da lei, ma adesso che gli era stato tolto il sigillo, sentivo il posto che aveva occupato nella voragine del mio cuore. Françoise, che non sapeva ancora niente, entrò in camera mia. Con la furia nella voce le gridai: «Cosa c'è?» Allora, ci sono a volte parole che, mettendo una realtà affatto diversa allo stesso posto di quella che ci sta accanto, ci stordiscono come una vertigine. Françoise mi disse: «Il signore non ha ragione d'essere arrabbiato, anzi deve proprio essere contento. Ci sono 2 lettere di Mademoiselle Albertine». Devo aver avuto, me ne resi conto poi, lo sguardo di uno che sta per perdere l'equilibrio mentale. Non fui nemmeno felice, né incredulo. Ero come uno che veda uno spazio della sua camera occupato allo stesso tempo da un canapè e da una grotta. Più niente gli sembra reale e cade a terra. Le 2 lettere di Albertine erano state scritte evidentemente poco prima della passeggiata in cui era morta. La prima diceva: «Amico mio, vi ringrazio della prova di fiducia che mi date comunicandomi la vostra intenzione di far venire André in casa vostra. Sono sicura che accetterà con gioia e credo che sarà una cosa molto buona per lei. Dotata com'è, saprà approfittare della compagnia ad un uomo come voi e della stupenda influenza che sapete esercitare su una persona. Credo che abbiate avuto un'idea dalla quale può nascere del bene per lei come per voi. Così, se dovesse fare, ma non lo credo, la minima difficoltà, telegrafatemi. Mi prendo l'incarico di convincerla». La seconda recava la data del giorno dopo. In realtà, Doveva averle scritte a brevissima distanza l'una dall'altra, forse contemporaneamente, antidatando la prima. Per tutto il tempo, infatti, io avevo immaginato nell'assurdo le sue intenzioni, che erano state solo di tornare da me, e che una persona disinteressata alla cosa, un uomo privo di immaginazione, il negoziatore d'un trattato di pace, il commerciante che valuta una transazione, avrebbero giudicate meglio di me. Non conteneva che queste parole. Sarebbe troppo tardi se tornassi da voi? Se non avete ancora scritto ad André, acconsentireste a riprendermi? Mi sottometterò alla vostra decisione. Vi supplico di non tardare a farmela conoscere. Potete immaginare con che impazienza l'aspetto. Se decideste che posso tornare, prenderei immediatamente il treno. Vostra, con tutto il cuore, Albertine. Perché la morte di Albertine potesse sopprimere le mie sofferenze, l'urto avrebbe dovuto ucciderla non solo in Turin, ma dentro di me. Lì non era mai stata più viva. Per entrare in noi, un essere è stato costretto a prendere la forma, a piegarsi alla cornice del tempo, non apparendoci che per istanti successivi non ha potuto lasciarci di sé che un solo aspetto alla volta, consegnarci di sé nulla più d'una singola fotografia. Grande debolezza, certo, per un essere, consistere in una semplice collezione di momenti, grande forza anche. S'appoggia alla memoria, e la memoria d'un momento non è informata di tutto ciò che è avvenuto in seguito. Quel momento che essa ha registrato dura ancora, vive ancora, e con quel momento l'essere che vi si profilava. E poi questo sbriciolamento non si limita a far vivere colei che è morta. La moltiplica. Per consolarmi avrei dovuto dimenticare non una soltanto, ma innumerevoli Albertine. Quando fossi arrivato a sopportare il dolore d'aver perduto quella, avrei dovuto ricominciare con un'altra, con 100 altre. Fu allora che la mia vita mutò completamente. Quello che, non a causa di Albertine, ma parallelamente a lei, ne aveva fatto quando ero solo la dolcezza, era appunto il perpetuo rinascere al richiamo di momenti identici, di momenti remoti. Il rumore della pioggia mi restituiva l'odore dei lilà di Compré, la mobilità del sole sul balcone, i piccioni dei Champs-Élysées, l'attutirsi dei rumori nel calore del mattino, la freschezza delle ciliegie. Dal rumore del vento e dal ritorno della Pasqua rinasceva il desiderio della Bretagna o di Venezia. Veniva l'estate, i giorni erano lunghi, faceva caldo. Era il tempo in cui studenti e professori vanno di buon mattino ai giardini pubblici a preparare sotto gli alberi gli ultimi esami per raccogliere l'unica goccia di freschezza da un cielo meno infiammato che nell'ardore del giorno, ma già altrettanto sterilmente puro. Dalla mia camera buia, con un potere d'evocazione uguale a quello d'un tempo, ma che mi dava ormai soltanto sofferenza, sentivo che fuori, nella pesantezza dell'aria, il sole al declino dava una pennellata fulva alla verticalità delle case, delle chiese. E se Françoise, rientrando, scomponeva senza volerlo le pieghe delle grandi tende, soffocavo un grido alla trafittura provocata in me da quel raggio di vecchio sole che m'aveva fatto sembrare bella la facciata nuova di Bricqueville d'Orgueilleuse, quando Albertine m'aveva detto «è restaurata». Non sapendo come spiegare il mio sospiro a Françoise, le dicevo «ah, ho sete». Lei usciva, tornava. Ma io mi giravo violentemente dall'altra parte sotto la scarica dolorosa d'uno dei mille ricordi invisibili che esplodevano di continuo intorno a me nell'ombra. Avevo visto che Françoise aveva portato del sidro e delle ciliegie, lo stesso sidro, le stesse ciliegie portate nella nostra vettura a Balbec da un garzone di fattoria, specie sotto le quali avrei comunicato nel più perfetto dei modi un tempo, con l'arcobaleno delle sale da pranzo oscure nell'ardore del giorno. Pensai allora per la prima volta alla fattoria di Les Écorres e mi dissi che certi giorni in cui a Balbec Albertine mi diceva di non essere libera, ad essere costretta a uscire con sua zia, era forse con una delle sue amiche in una fattoria in cui sapeva che non era mia abitudine andare e, mentre io m'attardavo per ogni eventualità alla Marie Antoinette dove m'avevano detto «oggi non l'abbiamo vista», usava forse con la sua amica le stesse parole che diceva a me quando uscivamo insieme. Non penserà certo di cercarci qui, così staremo tranquille. Diceva a Françoise di richiudere le tende per non vedere più quel raggio di sole, ma continuava a filtrare, non meno corrosivo, nella mia memoria. Non mi piace, è restaurata. Domani andremo a Saint-Martin-le-Vétus, dopodomani a... Domani, dopodomani, un futuro di vita in comune, forse per sempre, che comincia. Il mio cuore gli balza incontro, ma quello non c'è più. Albertina è morta. Chiesi l'ora a Françoise, le 6. Finalmente, grazie a Dio, stava per sparire quel calore greve di cui un tempo mi lamentavo con Albertine e che ci piaceva tanto. La giornata finiva. Ma cosa ci guadagnavo io? S'alzava il fresco della sera, era il tramonto. Nella memoria, in fondo a una strada che facevamo insieme per tornare a casa, scorgevo più in là dell'ultimo villaggio una stazione lontana, inaccessibile per quella sera in cui sempre insieme ci saremmo fermati a Balbec. Insieme allora. Adesso davanti a quell'abisso bisognava fermarsi di netto. Lei era morta. Non bastava più chiudere le tende. Cercavo di tappare gli occhi e le orecchie della memoria per non rivedere quella striscia arancione del tramonto, per non sentire quegli uccelli invisibili che si rispondevano da un albero all'altro tutto intorno a me, che ricevevo allora così teneri baci da colei che adesso era morta. Cercavo di evitare le sensazioni legate all'umidità delle foglie nella sera, al salire e ridiscendere strade a schiena d'asino. Ma già quelle sensazioni m'avevano riassalito, portandomi lontano dal momento attuale, abbastanza lontano perché prendesse tutta la rincorsa, tutto lo slancio necessario a colpirmi di nuovo l'idea che Albertine era morta. Ah, non sarei entrato mai più in una foresta, non avrei più passeggiato fra gli alberi. Ma le pianure mi sarebbero state meno crudeli? Quante volte avevo attraversato per andare a prendere Albertine, quante, tornando, avevo ripercorso con lei la grande piana di Criqueville, talvolta con un tempo brumoso in cui l'inondazione della nebbia ci dava l'illusione d'essere circondati da un immenso lago, tal'altra in serate limpide in cui il chiaro di luna, smaterializzando la terra, facendola apparire già a due passi celeste come non è durante il giorno se non in grande lontananza, racchiudeva i campi, i boschi, assieme al firmamento cui li aveva assimilati, nell'agata arborizzata d'un unico azzurro. Françoise doveva essere felice della morte di Albertine, e bisogna darle atto che per una sorta di convenienza e di tatto non simulava la tristezza. Ma le leggi non scritte del suo codice arcaico e la sua tradizione di contadina medievale che piange come nelle canzoni di gesta erano più antiche del suo odio per Albertine e persino per Eulalie. Così, sul tardi d'uno di quei pomeriggi, non riuscendomi di nascondere abbastanza in fretta la mia sofferenza, lei vide le mie lacrime. Assistita dal suo istinto di ex contadinella in forza del quale catturava e torturava un tempo gli animali, non provava altro che allegria a strangolare i polli e a cuocere vivi gli astici e, quando stavo male, osservava la mia cattiva cera quasi si trattasse delle ferite da lei inflitte a una civetta, dandone poi l'annunzio in tono funebre e come un presagio di sventura. Ma il suo formulario di Combré non le consentiva di prendere alla leggera le lacrime, l'afflizione, cose che giudicava tanto funeste quanto togliersi la flanella o mangiare controvoglia. Oh no, signore, non bisogna piangere così, ti farà male. E nel voler arrestare le mie lacrime, aveva un'aria non meno inquieta che se fossero stati fiotti di sangue. Disgraziatamente io assunsi un atteggiamento gelido, che diede un taglio netto alle effusioni cui Françoise aspirava e che forse, del resto, sarebbero state sincere. Le succedeva forse con Albertine quello che le era successo con Eulalie, e adesso che la mia amica non poteva più trarre da me alcun profitto, lei aveva smesso di odiarla. Tenne comunque a mostrarmi che s'era accorta benissimo che stavo piangendo e che però, seguendo l'esempio funesto dei miei, non volevo dar a vedere. «Non bisogna piangere, signore», ripetei in tono più calmo stavolta, e più per mostrarmi la sua chiaroveggenza che per testimoniarmi la sua compassione, e aggiunse: «Doveva succedere. Era troppo felice, poverina. Non ha saputo riconoscere la sua felicità».